i lavori per il nodo rassignano del collegamento Futa ci ha messo in una situazione veramente veramente difficile. Il problema è stato che non siamo stati informati dell'inizio della chiusura proprio di questo cantiere per il tratto di Alcide De Gasperi, che chiude la via Torriane all'angolo con il ponte delle Oche. A seguito delle frane molte strade dei colli sappiamo sono chiuse, via delle Lastre è chiusa, via del Paleotto, che era una strada diciamo importante per noi, dal ponte di ferro metteva in comunicazione la via Andracosta di Rassignano con via Torriane in senso unico, è crollata perché il fiume si è portato via l'asfalto, cioè è chiusa. Adesso hanno chiuso dal ponte delle Oche l'altro accesso a via Torriane, che è via Alcide De Gasperi. In sostanza via Torriane e via di Paderno sono costrette a percorrere tutti i colli, perché comunque via delle Lastre, Monte Donato, insomma non si può scendere di lì. Noi per raggiungere Rassignano, solitamente raggiungibile in 5 minuti di macchina, dobbiamo scollinare e scendere da Porta San Mammolo, fare tutti i viali, quindi anche negli orari di traffico intenso, quando la gente va a lavorare, insomma, e bisogna fare tutta la via Toscana, tutta la via Andracosta per arrivare a Rassignano, cioè 45 minuti di macchina. Poi bisogna anche vedere le condizioni del traffico, perché comunque le strade collinari non sono strade ad alta percorribilità, lo sappiamo, no? Poi adesso in molti punti sono stati messi dei sensi unici alternati, perché comunque ci sono state le frane che non sono state ripristinate. L'altra via di accesso, diciamo la via Torriane, è via di Pieve del Pino, da Pian di Macina, quindi anche lì abbiamo da percorrere diversi chilometri per ritornare poi al centro di Rassignano. Noi lì dentro abbiamo una serie di esigenze, abbiamo anziani, disabili che hanno bisogno delle terapie domiciliari, delle badanti, abbiamo bisogno del rifornimento delle botti del gas, perché non abbiamo il gas comunale, noi abbiamo le botti col GPL, le poste, la raccolta dei rifiuti, cioè tutti i tipi di servizi che normalmente accedono da Rassignano non possono accedere, devono scollinare, compreso dei servizi di emergenza. Si sente male un anziano, abbiamo bisogno di chiamare un'ambulanza, l'ambulanza deve scollinare tutti i colli per raggiungerci. Cioè, è una situazione incredibile. Vista la situazione, i lavori per il nodo di Rassignano potrebbero aspettare. Ecco, il buon senso direbbe: aggiustiamo, mettiamo in condizione i residenti di raggiungere Rassignano in qualche modo. È franata via del Paleotto, cerchiamo di mettere in condizione i residenti di uscire, non dico magari da via del Paleotto, però è chiusa anche via Viola. Io non dico che i residenti debbano uscire comodamente su Rassignano lì, però perlomeno poter uscire almeno sulla via Toscana. E il problema è che non è stato fatto questo lavoro, i residenti non sono stati messi in condizioni di poter muoversi di casa prima di procedere con la prosecuzione dei lavori, e quindi la canterizzazione e la chiusura stradale di via Alcide De Gasperi. Le persone che si sono interfacciate con le amministrazioni hanno detto che le amministrazioni non erano informate.